Papà va in città. Papà partì prima dell'alba. Quando Laura e Mary si svegliarono era già partito e la casa sembrava vuota. Non era come se fosse solo andato a caccia, stava andando in città e non sarebbe rientrato prima di 4 lunghi giorni. Bunny era stata chiusa nella stalla per impedirle di seguire sua madre. Il viaggio era troppo lungo per un puledro. Bunny gemeva tristemente. Laura e Mary stavano in casa con mamma. Fuori era troppo grande e vuoto per giocare quando papà non c'era. Anche Jack si sentiva a disagio ed era guardingo. Nel pomeriggio Laura andò con mamma a dare da bere a Bunny e a spostare il piolo della mucca nell'erba fresca. La mucca era diventata docile, seguiva tranquillamente mamma e si lasciava persino mungere. All'ora della mungitura mamma si stava mettendo la cuffia quando all'improvviso il pelo di Jack si drizzò e corse fuori di casa. Sentirono un grido, uno scatto, poi qualcuno urlò: «Richiamate il cane! Richiamate il cane!» Il signor Edwards era in cima alla catasta di legno e Jack gli correva dietro. «Sono in trappola!» disse il signor Edwards, indietreggiando in cima alla pila di legna. Mamma riuscì con fatica a mandare via Jack. Jack fece una smorfia rabbiosa, i suoi occhi erano rossi. Doveva lasciar scendere il signor Edwards, ma lo teneva d'occhio. Mamma disse: «Oh, credo abbia capito che Charles non è qui.» E il signor Edwards disse che i cani sanno molte più cose di quanto creda la maggior parte della gente. Mentre andava in città, papà si era fermato a casa del signor Edwards e gli aveva chiesto di venire ogni giorno a controllare che fosse tutto a posto. E il signor Edwards era un così bravo vicino che era venuto all'ora delle faccende per aiutare mamma. Ma Jack aveva deciso di non lasciare che nessuno, a parte mamma, si avvicinasse alla mucca o a Bunny mentre papà era via. Avevano dovuto chiuderlo in casa mentre il signor Edwards si occupava degli animali. Quando se ne andò, il signor Edwards disse a mamma: «Tenete il cane in casa stanotte e sarete al sicuro.» La notte scese lentamente tutto intorno alla casa. Il vento urlava tristemente, i gufi cantavano «Uh! Uh!». Un lupo ululò e Jack ringhiò dal profondo della sua gola. Mary e Laura sedevano accanto al fuoco insieme a mamma. Sapevano di essere al sicuro in casa perché Jack era con loro e mamma aveva tirato dentro il cordino del chiavistello. Il giorno dopo fu vuoto come il precedente. Jack camminava intorno alla stalla e intorno alla casa, poi di nuovo intorno alla stalla e intorno alla casa. Non prestava attenzione a Laura. Quel pomeriggio la signora Scott venne a trovare mamma. Per tutto il tempo Mary sedette educatamente in silenzio. La signora Scott ammirò la nuova sedia a dondolo. Più ci si dondolava, più le piaceva, e disse che la loro casa era proprio bella e confortevole. Disse che sperava che non avrebbero avuto guai con gli indiani. Il signor Scott aveva sentito dire che c'erano dei problemi. Disse: «Lo sanno tutti, non se ne fanno nulla di tutta questa terra. Sanno solo vagabondare come animali selvatici. Trattati o non trattati, la terra appartiene a chi la coltiva. È una questione di semplice buonsenso.» Non capiva perché il governo trattasse con gli indiani. L'unico indiano buono era un indiano morto, diceva. Il solo pensiero degli indiani le faceva gelare il sangue. Disse: «Non potrò mai dimenticare il massacro del Minnesota. Mio padre e i miei fratelli partirono con il resto dei coloni e li fermarono a solo 25 km da noi, verso ovest. Quante volte ho sentito raccontare da papà come avevano...» Mamma si schiarì la voce e la signora Scott si fermò. Qualunque cosa fosse un massacro, era un argomento di cui gli adulti non parlavano davanti ai bambini. Dopo che la signora Scott se ne fu andata, Laura chiese a mamma cosa fosse un massacro. Mamma disse che non poteva spiegarglielo in quel momento. Era qualcosa che Laura avrebbe capito una volta cresciuta. Quella sera il signor Edwards venne di nuovo per occuparsi degli animali e Jack lo obbligò di nuovo a rifugiarsi in cima alla catasta di legna. Mamma dovette trascinarlo via. Disse al signor Edwards che non sapeva cosa gli passasse per la testa, forse era il vento che lo rendeva nervoso. Il vento aveva un suono strano e minaccioso. Attraversava i vestiti di Laura come se non ci fossero. I suoi denti e quelli di Mary battevano mentre trasportavano più legna possibile dentro casa. Quella notte pensarono a papà, a Independence. Se tutto era andato come previsto, a quell'ora era certamente accampato laggiù, vicino alle case abitate. L'indomani sarebbe andato al negozio a fare acquisti, poi, se fosse riuscito a partire presto, avrebbe potuto riprendere la via di casa e accamparsi nella prateria la notte successiva, e il giorno dopo sarebbe stato di ritorno. Al mattino il vento soffiava così forte ed era così freddo che mamma tenne la porta chiusa. Laura e Mary stavano vicino al fuoco e ascoltavano il vento sibilare intorno alla casa e ululare dentro il camino. Quel pomeriggio si domandarono se papà avesse lasciato Independence e stesse tornando verso casa, sfidando il vento. Poi, quando fu buio, si chiesero dove fosse accampato. Il vento era terribilmente freddo, entrava persino nella loro confortevole casa e dava i brividi nella schiena, mentre i loro volti arrostivano al calore del fuoco. Da qualche parte, nella grande, buia, solitaria prateria, papà era accampato nel bel mezzo di quel vento. Il giorno seguente fu interminabile. Non pensavano che papà sarebbe arrivato al mattino, ma attendevano il momento in cui avrebbero potuto cominciare ad aspettarlo. Nel pomeriggio presero a tenere d'occhio la strada del ruscello. Anche Jack la guardava, guaiva per poter uscire, poi girava intorno alla stalla e alla casa, fermandosi a guardare verso il ruscello e digrignando i denti. Il vento lo faceva quasi cadere. Quando entrava in casa non si metteva a cuccia, continuava a camminare con aria preoccupata. Il pelo gli drizzava sulla schiena, poi tornava giù, poi si drizzava nuovamente. Cercava di guardare fuori dalla finestra, poi piangeva dietro la porta, ma quando mamma gli apriva, lui non usciva. Jack ha paura di qualcosa, disse Mary. Jack non ha paura di niente, la contraddisse Laura. Laura, Laura, disse mamma, non è educato contraddire gli altri. Un minuto dopo Jack decise di uscire, andò a vedere se la mucca, il vitello e Bunny erano al sicuro nella stalla. Laura avrebbe voluto dire a Mary, te l'avevo detto. Non lo fece, ma avrebbe voluto. Al momento di occuparsi degli animali, mamma tenne Jack in casa in modo che non costringesse il signor Edwards a rifugiarsi sulla pila di legna. Papà non era ancora arrivato. Il vento spinse il signor Edwards in casa attraverso la porta. Era infreddolito e senza fiato. Si scaldò vicino al fuoco prima di andare a occuparsi degli animali e quando ebbe finito tornò a sedersi per scaldarsi ancora. Disse a mamma che gli indiani erano accampati nel rifugio ai piedi del promontorio. Aveva visto il fumo dei loro fuochi mentre attraversava il ruscello. Chiese a mamma se aveva un'arma. Mamma disse che aveva la pistola di papà e il signor Edwards disse: Penso che resteranno nell'accampamento in una notte come questa. Sì, disse mamma. Il signor Edwards disse che quella notte, se mamma avesse voluto, avrebbe dormito nella stalla, sul fieno. Mamma lo ringraziò, ma rispose che non voleva metterlo in quella situazione e che sarebbero stati al sicuro con Jack. Mio marito arriverà da un momento all'altro, disse. Così il signor Edwards si mise il cappotto, il cappello, lo sciarpone e i guanti e prese la sua pistola. Disse che pensava che nessuno l'avrebbe infastidita. Sì, disse mamma. Quando chiuse la porta, tirò dentro il cordino, anche se non era ancora buio. Laura e Mary vedevano la strada che scendeva al ruscello e rimasero a guardarla finché non scomparve nella notte. Allora mamma chiuse e sbarrò le persiane di legno. Papà non era arrivato. Cenarono, lavarono i piatti, spazzarono il focolare e ancora niente. Fuori al buio dove si trovava papà, il vento urlava, ululava, lamentoso, scuoteva il chiavistello, sbatteva le persiane, urlava nel camino mentre il fuoco divampava ruggente. Per tutto il tempo Laura e Mary restarono in ascolto per sentire il rumore delle ruote del carro. Sapevano che anche mamma ascoltava, anche se stava cullando Carrie e cantando per addormentarla. Carrie si addormentò e mamma continuò a cullarla. Alla fine la svestì e la mise a letto. Laura e Mary si guardavano, non volevano andare a dormire. Su a letto, bambine, disse mamma. Laura la pregò di lasciarla restare alzata finché papà non fosse rientrato e Mary le diede manforte finché mamma non disse sì. Per molto, molto tempo rimasero sedute. Mary sbadigliava, Laura sbadigliava, poi sbadigliavano entrambe, ma tenevano gli occhi bene aperti. Gli occhi di Laura vedevano le cose diventare molto grandi, poi molto piccole. E a un certo punto vedeva due Mary e poi nemmeno una. Mamma sarebbe rimasta a sedere fino all'arrivo di papà. All'improvviso uno schianto terribile la spaventò e mamma la risollevò, era caduta faccia a terra dalla panca. Cercò di convincere mamma che non aveva bisogno di andare a dormire. Ma un enorme sbadiglio le aprì quasi la testa in due. Nel cuore della notte Laura si sedette sul letto. Mamma era sulla sedia a dondolo vicino al fuoco. Il chiavistello e le persiane sbattevano e il vento ululava. Gli occhi di Mary erano aperti e Jack camminava avanti e indietro. Laura sentì un ululato vero, alzarsi, smorzarsi, poi alzarsi di nuovo. Mettiti giù, Laura, torna a dormire, disse mamma dolcemente. Cos'è questo ululato? Chiese Laura. È il vento, rispose mamma. Adesso ascoltami, Laura. Laura si sdraiò, ma i suoi occhi rimasero aperti. Sapeva che papà era fuori al buio, da dove venivano quei terribili ululati. Gli uomini selvaggi erano nelle gole in riva al ruscello e papà avrebbe dovuto attraversare il ruscello al buio. Jack ringhiava. Mamma cominciò a oscillare dolcemente nella comoda sedia a dondolo. La luce del fuoco andava su e giù, lungo la canna della pistola di papà che lei teneva in grembo, e mamma cantò dolcemente. Laura non sapeva di essersi addormentata, credeva che gli angeli luminosi avessero cominciato a cantare con mamma e rimase lì ad ascoltare quel canto paradisiaco finché i suoi occhi si aprirono e vide papà in piedi vicino al fuoco. Saltò giù dal letto urlando: Oh, pa! Pa! Gli stivali di papà erano ricoperti di fango congelato, il naso era arrossato dal freddo, i capelli dritti sulla testa. Era così freddo che il freddo passò attraverso la camicia da notte quando Laura gli si avvicinò. Aspetta, disse. Avvolse Laura nello scialle di mamma e l'abbracciò. Era tutto a posto. La casa era illuminata dal fuoco, c'era il profumo caldo e avvolgente del caffè. Mamma sorrideva. Papà era arrivato. Lo scialle era così grande che Mary si avvolse addosso l'altra metà. Papà si tolse i rigidi stivali e si scaldò le mani gelate e indolenzite. Poi sedette sulla panca, prese Mary su una gamba e Laura sull'altra e le strinse forte a sé, ancora avvolte nello scialle. I loro piedi scalzi si abbrustolivano al fuoco. Ah! Sospirò papà. Ho temuto di non farcela ad arrivare. Mamma rovistò tra le cose che aveva comprato e mise lo zucchero grezzo in una tazza di stagno. Papà aveva comprato lo zucchero Independence. Il tuo caffè sarà pronto tra un attimo, Charles, disse. Ha piovuto da qui a Independence all'andata, disse papà, e al ritorno il fango si ghiacciava tra i raggi fin quasi a riempire le ruote. Dovevo scendere e spaccarlo per permettere ai cavalli di tirare. E avevo appena finito di farlo che mi toccava scendere e ricominciare da capo. Non c'era altro che potessi fare perché Pet e Patty continuassero ad avanzare controvento. Sono così stanche che a malapena si reggono in piedi. Non ho mai visto un vento simile. Taglia come una lama di coltello. Il vento aveva cominciato a soffiare mentre papà era in città. Gli avevano detto di aspettare che smettesse, ma lui voleva tornare a casa. Non riesco a capire, disse, perché chiamano un vento che viene da sud nordico e come un vento del sud possa essere così dannatamente freddo. Io non ho mai visto niente del genere. In questa regione è il vento più freddo di cui abbia mai sentito parlare. Beve il suo caffè e si asciugò i baffi con il fazzoletto, poi disse: Ah, ci voleva proprio Caroline, sto cominciando a scongelarmi. Poi, con gli occhi che brillavano, guardò mamma e le disse di aprire il pacchetto quadrato che era sul tavolo. Attenta, disse, non farlo cadere. Mamma si fermò e disse: Oh, Charles, non l'hai fatto davvero. Aprilo, disse papà. In quel pacchetto quadrato c'erano 8 piccoli quadrati di vetro per le finestre. Avrebbero avuto finestre di vetro nella loro casa. Nessuno dei quadrati era rotto. Papà li aveva portati con cura fino a casa. Mamma scosse la testa e disse che non avrebbe dovuto spendere così tanto, ma il suo volto intero sorrideva e papà rideva di gioia. Erano tutti così contenti. Per tutto l'inverno avrebbero potuto guardare fuori dalla finestra ogni volta che volevano. E la luce del sole sarebbe potuta entrare in casa. Papà disse di aver pensato che mamma, Mary e Laura avrebbero preferito dei vetri per le finestre a qualsiasi altro regalo. E aveva ragione, era così, infatti. Ma non era tutto. C'era anche un sacchetto di carta pieno di zucchero bianco. Mamma lo aprì e Mary e Laura guardarono il candore luccicante di quel bellissimo zucchero. E poterono anche assaggiarne un po' ciascuna con un cucchiaio. Poi mamma legò con cura il sacchetto. Avrebbe utilizzato lo zucchero bianco quando avevano ospiti. La cosa più bella era che papà era tornato a casa sano e salvo. Laura e Mary tornarono a dormire. Ora si sentivano bene, tutto era a posto quando c'era papà. Poi aveva portato i chiodi, la farina di mais, il lardo, il sale e tutto il resto. Non sarebbe dovuto tornare in città per un bel po' di tempo. L'indiano alto. In quei 3 giorni il vento nordico aveva soffiato e strillato per tutta la prateria fino a esaurirsi. Ora il sole era caldo e il vento era mite, ma si sentiva l'autunno nell'aria. Gli indiani passavano a cavallo lungo il sentiero vicino alla casa, la superavano, come se non ci fosse. Erano magri, scuri e nudi, cavalcavano i loro piccoli pony senza sella né briglie, sedevano dritti sul pony e non guardavano né a destra né a sinistra, ma i loro occhi neri brillavano. Laura e Mary, appoggiate contro la casa, li guardavano. Vedevano la loro pelle marrone e rossiccio spiccare contro il cielo e i loro scalpi rasati con cordini colorati e piume ondeggianti. Le facce degli indiani erano come quel legno marrone e rossiccio nel quale papà aveva intagliato la mensola per mamma. Credevo che fosse un vecchio sentiero non più in uso, disse papà. Non avrei costruito la casa così vicino se avessi saputo che era una strada maestra. Jack odiava gli indiani e mamma disse che lo capiva. Ci sono così tanti indiani da queste parti che non posso alzare lo sguardo senza vederne uno. Mentre lo diceva, alzò lo sguardo e lì c'era un indiano. Era sulla porta e li guardava. E loro non lo avevano sentito arrivare. Santo cielo! Esclamò mamma. Jack saltò silenziosamente verso l'indiano. Papà lo afferrò per il collare appena in tempo. L'indiano non si era mosso. Era rimasto immobile, come se Jack non ci fosse stato. Oh, disse papà. Trattenendo Jack, papà rispose: Oh! Trascinò Jack fino al letto e lo legò lì. Mentre lo faceva, l'indiano entrò e si accovacciò vicino al fuoco. Poi papà si accovacciò vicino all'indiano e sedettero lì amichevolmente, ma senza dire una parola, mentre mamma finiva di preparare la cena. Laura e Mary stavano vicine e silenziose in un angolo del loro letto. Non potevano staccare gli occhi da quell'indiano. Era così immobile che le belle piume di aquila sulla sua testa non si muovevano. Solo il suo petto nudo e la pancia magra sotto le costole si muovevano un poco mentre respirava. Indossava pantaloni di pelle con le frange e i suoi mocassini erano ricoperti di perline. Mamma servì la cena a papà e all'indiano in 2 piatti di stagno e loro mangiarono in silenzio. Poi papà diede all'indiano del tabacco per la sua pipa. Riempirono le pipe, accesero il tabacco con le braci del camino e fumarono in silenzio finché le pipe non furono vuote. Per tutto questo tempo nessuno aveva detto una parola. Ma poi l'indiano disse qualcosa a papà. Papà scosse la testa e disse: Non capisco. Rimasero in silenzio ancora per un po'. Poi l'indiano si alzò e se ne andò. Oh, santo cielo! Disse mamma. Laura e Mary corsero alla finestra, videro l'indiano con la schiena dritta allontanarsi in groppa a un pony. Teneva una pistola stretta tra le ginocchia. Papà disse che non si trattava di un indiano qualsiasi, dallo scalpo intuiva che fosse un Osage. Se non sbaglio, disse, parlava in francese, se solo l'avessi imparato un po'. Lascia che gli indiani stiano tra loro, disse mamma, e noi faremo lo stesso, non mi piace avere indiani tra i piedi. Papà le disse di non preoccuparsi. Quell'indiano era assolutamente amichevole, disse, e i loro accampamenti nelle gole sono pacifici. Se li trattiamo bene e teniamo a bada Jack, non avremo nessun problema. Il giorno dopo, quando papà aprì la porta per andare alla stalla, vide Jack sul sentiero degli indiani. Stava lì rigido, i peli ritti sulla schiena e mostrava i denti. Davanti a lui, sul sentiero, l'indiano alto era in groppa al suo pony. L'indiano e il pony erano assolutamente immobili. Jack stava dicendo loro molto chiaramente che li avrebbe attaccati se si fossero mossi. Solo le piume d'aquila sulla testa dell'indiano si muovevano ondeggiando e roteando per via del vento. Quando l'indiano vide papà, imbracciò il fucile e lo puntò verso Jack. Laura corse sulla porta, ma papà fu più veloce, si mise tra Jack e il fucile, poi prese Jack per il collare, lo trascinò via dal sentiero degli indiani e l'indiano proseguì per la sua strada. Papà rimase lì con i piedi piantati a terra e le mani in tasca a guardare l'indiano che si allontanava sempre più attraverso la prateria. Ah, la scampata bella, disse papà. Beh, questo è il suo sentiero, un sentiero indiano da molto prima che arrivassimo noi. Mise un anello di ferro in uno dei tronchi del muro della casa e ci legò Jack con la catena. Da quel momento Jack rimase incatenato. Era legato alla casa durante il giorno e alla porta della stalla di notte perché c'erano ladri di cavalli adesso nella zona. Avevano rubato i cavalli del signor Edwards. Legato alla catena, Jack diventava sempre più rabbioso, ma non c'era altro da fare. Non voleva capire che il sentiero era degli indiani. Era convinto che appartenesse a papà. E Laura sapeva che se avesse fatto del male a un indiano, le conseguenze sarebbero state catastrofiche. L'inverno stava arrivando. L'erba era scolorita sotto il cielo scolorito. Il vento urlava come se stesse cercando qualcosa che non riusciva a trovare. Gli animali selvatici erano pronti per l'inverno con le loro pellicce spesse. E papà aveva messo delle trappole in riva al ruscello. Ogni giorno andava a controllarle e ogni giorno andava a caccia. Ora che le notti erano gelide, poteva cacciare i cervi per la carne. Cacciava lupi e volpi per la pelliccia e con le trappole prendeva castori, topi muschiati e visoni. Stendeva le pelli fuori dalla casa e le fissava con cura per farle essiccare. La sera lavorava con le mani le pelli essiccate per ammorbidirle e le aggiungeva al mucchio che aveva accatastato in un angolo. Ogni giorno il mucchio di pellicce aumentava. Laura adorava accarezzare la spessa pelliccia delle volpi. Le piaceva anche la pelliccia soffice e marrone del castoro e quella ispida del lupo, ma la migliore era quella vellutata del visone. Papà conservava quelle pellicce per barattarle la primavera successiva a Independence. Laura e Mary avevano berretti di pelliccia di coniglio e quello di papà era di topo muschiato. Un giorno, mentre papà era a caccia, vennero due indiani. Jack era legato e loro entrarono in casa. Erano sporchi, cattivi e arrabbiati. Si comportarono come se la casa appartenesse a loro. Uno dei due guardò nella dispensa e prese tutto il pane di mais. L'altro prese l'astuccio con il tabacco di papà. Guardarono i ganci ai quali papà appendeva il fucile. Poi uno di loro prese il mucchio di pellicce. Mamma teneva in braccio la piccola Carrie e Mary e Laura stavano vicino a lei. Guardarono l'indiano mentre prendeva le pellicce. Non potevano fare niente per impedirglielo. Le portò fino alla porta, poi l'altro indiano gli disse qualcosa. Si scambiarono versi stridoli e gutturali, lasciarono le pellicce e se ne andarono. Mamma si sedette, abbracciò Mary e Laura, le strinse a sé e Laura sentì il cuore di mamma battere. Bene, disse mamma sorridendo, meno male che non hanno preso l'aratro e i semi. Laura era sorpresa, quale aratro? L'aratro e tutti i nostri semi per il prossimo anno sono in quel mucchio di pellicce. Papà intendeva vendere le pellicce per acquistare l'aratro e i semi, disse mamma. Quando papà tornò a casa, gli raccontarono degli indiani e lui si fece serio, poi disse che tutto è bene quel che finisce bene. Quella sera, mentre Laura e Mary erano a letto, papà suonò il violino. Mamma, che si dondolava nella sedia, con la piccola Carrie stretta al petto, cominciò a cantare dolcemente, insieme al violino. La mia amata è un'indiana selvaggia, la bella alfarata. Vive vicino alle acque blu dello Juniata. Le mie frecce sono solide, la mia faretra è colorata, va veloce la mia canoa lungo il fiume Juniata. Il mio audace guerriero, l'amore di Alfarata, agita le sue belle piume lungo lo Juniata. Dolce quando parla con me, feroce il suo grido di guerra. La sua voce tuona forte tra le montagne. Così cantava la ragazza indiana, la bella Alfarata, mentre spazzava via le acque blu dello Juniata. Gli anni son volati via e la voce di Alfarata scorre ancora nelle acque blu dello Juniata. La voce di mamma e il suono del violino sfumarono lentamente e dolcemente. Laura chiese: "Dove è andata la voce di Alfarata, mamma?" "Santo cielo!" disse mamma. "Non dormi ancora?" "Oh, adesso dormo!" disse Laura. "Ma per favore dimmi dove è andata la voce di Alfarata." "Oh, beh, verso ovest, suppongo," rispose mamma. "È lì che vanno gli indiani." "Perché, ma perché vanno a ovest?" "Beh, devono farlo," disse mamma. "Perché devono farlo?" "È il governo che decide, Laura," disse papà. "Adesso dormi." Papà suonò dolcemente il violino per un po', poi Laura chiese: "Pa, posso farti solo una domanda?" "Per favore," disse mamma. Laura ricominciò: "Per favore, pa, posso?" Che cosa? Chiese papà. Non era educato per una bambina interrompere, ma ovviamente papà poteva farlo. Il governo manderà questi indiani a ovest? Sì, disse papà. Quando i coloni bianchi arrivano in una regione, gli indiani devono andarsene. Il governo li manderà a ovest da un momento all'altro. Ecco perché siamo qui, Laura. I bianchi si stabiliranno in questa zona e noi avremo le terre migliori perché siamo arrivati per primi e abbiamo potuto scegliere. Capisci ora? Sì, papà. Disse Laura, ma credevo che questo fosse il territorio degli indiani. Non si arrabbieranno se devono. Oh, basta domande, Laura, disse papà con decisione. Adesso dormi.